prossima, lasciatelo dire. Ed anche stavolta so che non mi crederai. Eri davanti a me, davanti agli occhi del bambino, e gli occhi del bambino, quelli non li danno proprio indietro mai. Credimi mai, mai, ti dico mai. Eri sanissima, ostrica e lampone, sulle mie dita c'eri sempre solo te. Ti davi un attimo e poi ti nascondevi bene. Io l'ho capito che sei sempre stata grande più di me. Ma adesso dimmi com'è andata, com'è stato il viaggio di una vita lì con te. Io spero solo tutto bene, tutto come progettavate voi da piccole. Stai bene lì con te, stai bene lì con te, stai bene lì con te. Fragile piccola, con le tue paure mi costringevi a nasconderti le mie. Sapevi ridere, sapevi il tuo sapore, e la godevi ad occupare tutte le mie fantasie. Ma adesso dimmi com'è andata, com'è stato il viaggio di una vita lì con te. Io spero solo tutto bene, tutto come progettavate voi da piccole. Stai bene lì con te, stai bene lì con te, stai bene lì. Eri bellissima, lasciatelo dire. Eri di tutti ma non lo sapevano, e tu lo sapevi che facevi gola e soggezione. Siamo stati insieme e comunque non mi hai conosciuto mai.